gente strana posse qua, contro ogni forma di imperialismo Yankee. Babilonia brucia, brucia, brucia Palestina, bombe sull'Iraq e sull'America Latina. La colpa di un'America assassina, e tra fascista e guerre nota ve mamma in cacchina. Goto e Borsia, tel Napoli, Genova oppure Praga, l'unica costante è chi sbaglia non paga. Chi paga la povera gente che si ribella e che finisce manganellato, oh, male che vada in canacella. E quel 20 di luglio, non posso scordarlo, quel sangue in piazza di Monda, il sangue di Carlo, assassinato dalla barbarie dello stato di polizia, e non ci facciamo occhio a finire sta camorria. Perciò fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, da Palermo a Baghdad da Derinta stare in sol. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, e il tuo voto d'assunto scritta Yankee go home. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, da Palermo a Baghdad da Derinta stare in sol. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, e il tuo voto d'assunto scritta Yankee go home. Ma ragione la mia sbirria, io sbirro non ci sogno. Fammi le domande, ma risposto un tenerugno. Ancora guardo il segno che hai lasciato sul compagno. Colpi di manganello a chi grida che sta soffrendo. E dammi la risposta perché spotto come lava. Stronzo di uno sbirro, quel bambino che c'entrava. Quel bambino che teneva lo striscione con su scritto un tetto anche per quelli senza soldi per l'affitto. Picci di giù senza forza per rispondere a violenza. Delle tue manganellate ne abbiamo abbastanza. Picci di giù senza forza per rispondere a violenza. Picci di giù casa e ne paghi in ambulanza. Perciò fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, da Palermo a Baghdad da Derinta stare in sol. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, e il pueblo todo assunto grida Yankee go home. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, da Palermo a Baghdad da Derinta stare in sol. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, e il pueblo todo assunto grida Yankee go home. Ribellarsi è giusto e diventa anche legittimo quando le tue speranze si dissolvono in un attimo per colpa di un impero basato sulla guerra che si accanisce con violenza e stupra la tua terra. Milioni sono i morti, non si contano i feriti. Quante stragi causate dagli Stati Uniti, quante terre invase, quante ancora da occupare. Contro questo sistema non ci resta che lottare. Ma accendo la TV, sempre la stessa scena, l'America che sputa sulla dignità irachena. Missili intelligenti che uccidono innocenti, famiglie senza un tetto per una medaglia al petto. Civili massacrati, torturati e seviziati, militari senza cuore dal potere logorati, servi di un padrone che li usa come sempre per compiere barbarie altro che 11 settembre. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, da Palermo a Baghdad da Derinta stare in sol. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, e il pueblo todo assunto grida Yankee go home. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, da Palermo a Baghdad da Derinta stare in sol. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, e il pueblo todo assunto grida Yankee go home. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, da Palermo a Baghdad da Derinta stare in sol. Fatti una fatta in sistema, fatti in Babilon, e il pueblo todo assunto grida Yankee go home.